Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Buongiorno, ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è, come sempre, il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. Poi nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io vi tengo compagnia, prometto, fino alle 18 sono qui, ma voi tenetemi compagnia. Ci sono due strumenti rapidissimi per contattarci: l'SMS 349-238-6666 e il mio account di Twitter @MartaCagnola. Ovviamente le tecnologie, con Enrico Pagliarini parleremo di spesa, di etichette, poi lui farà come sempre le sue prove impossibili, lo scopriremo più tardi. Tanto cinema, tutte le novità del weekend, un documentario che festeggia il compleanno, a me piace dire così, il compleanno del grandissimo, immenso Lucio Dalla, e un grande ospite. È già qui in studio, subito per scoprire di chi si tratta, un estratto del suo ultimo film da regista. Posso baciarti? Certo che non puoi. Quanto sei bella. Ti ricordi quella volta in palestra che mi dicevi che non mi basta mai? Non me lo ricordo. Ma quando è che sei diventato così stupido? Dimenticavo, tu sei meglio di me. Ci vuole poco ad essere meglio di te. Creep, siamo tutti un po' creep. Avete riconosciuto le voci di Riccardo Scamarcio e di Jasmine Trinca, e noi abbiamo in studio Sergio Castellitto. Buongiorno Sergio. Buongiorno Marta, buongiorno a tutti. 5 marzo esce Nessuno si salva da solo. Com'è l'attesa dell'uscita di un film così? Insomma, è sempre eccitante, emozionante, perché lavori un anno, lavori un anno e mezzo, scrivi, pensi di aver scritto bene, poi pensi di aver scritto male, poi riscrivi, poi finalmente riesci ad arrivare sul set e riscrivi un'altra volta attraverso la cinepresa, che oggi non si chiama più cinepresa visto che la pellicola non c'è più, ci stanno le schede. E riscrivi e poi finisci di girare e poi vai al montaggio e riscrivi un'altra volta al montaggio. Eh sì. È una scrittura continua che prende forme, direzioni, cieli diversi. E poi però a un certo punto è lì grandissimo, su uno schermo grande, lì non puoi più fare niente, quello è il film. Certo, quello è proprio la, come si dice, quando devi tagliare quel cordone, no? Devi tagliare quel cordone e il film non ti appartiene più, appartiene a chi lo vede, a chi lo ama, a chi lo va a vedere, a chi lo consiglia, a chi lo detesta o quello che sa, quello che può essere. Però è una separazione. È una separazione di un artista verso la sua opera, però il fine ultimo dell'opera è separarsi da essa. E consegnarla. Nei giorni del limbo, perché siamo nei giorni, sì, in cui certo, la stampa l'ha visto, comincia a parlarne, il pubblico lo aspetta, sì, però manca ancora. Sì, è un avvento in qualche modo, no? Sì. Per cui insomma, è molto, molto emozionante, molto eccitante, e soprattutto sono molto contento perché dalle prime reazioni mi sembrano tutte molto calde, molto affettuose. È un cinema dell'umano, quello che io tento di fare. Sì. E quindi parla di noi. Parla intanto di Delia Gaetano, una coppia a cena, che è una coppia in crisi, una coppia che si rinfaccia a qualsiasi cosa, però si arriva a quel punto in qualche modo, e quindi la costruzione del film si basa sull'arrivare, sul vivere, sul consumare la vita e arrivare a quel punto di ma chissà, non ritorno, ritorno, e questo è il gioco dell'esistenza. Assolutamente sì, è un film che si infila in un altro film. E poi forse si infila anche in un terzo film, chi lo sa, poi chi lo vedrà capirà cosa voglio dire. E c'è il film del ristorante, c'è questo luogo dove loro, questa coppia in crisi, si incontra una sera per sbrigare quella che è, come dire, una normale burocrazia delle coppie separate, chi prende i bambini a giugno, chi li prende a luglio, sì. Insomma, chi è separato lo sa. E invece questo ristorante diventa una specie di tavolo d'anatomia, dove viene sezionato il loro amore, vengono sezionati i 10 anni che hanno trascorso insieme, si sono innamorati in un modo forsennato, in un modo in cui, vuol dire, che tutti vorrebbero incontrare nella loro vita. E poi questo film del ristorante comincia a essere improvvisamente interrotto dall'altro film, da quello della passione, da quello del passato, dei flashback, che non sono così lontani, sono, come dire, al massimo sì, di 7-8 anni prima. Hanno fatto tanto sti ragazzi insieme, si sono innamorati, hanno preteso di fare qualcosa di costruire un progetto d'amore unico, perché tutti velleitariamente pensano di che non si faranno fregare dalla vita, invece la vita spesso ti frega. Sì, perché poi il tutto è chiedersi: ma come siamo arrivati qui? È impossibile. Come è possibile che siamo arrivati a questo punto? Che è un po' una domanda che ci facciamo sempre nella vita. Quando si parte da un libro, si dice sempre, perlomeno si diceva un tempo, riduzione cinematografica. E ridurre non è un verbo a caso, no, perché certo. Si parte da un romanzo corposo, pagine, si prende uno sceneggiatore che a volte è lo stesso autore del libro e a volte no. E qui come avete lavorato? Perché il libro è ovviamente un libro notissimo di Margaret Mazzantini. Come avete lavorato tu e Margaret? Perché non è facile prendere la carta e trasformarlo, certo, in qualcos'altro. Io ho una certa esperienza, come tu sai, perché non è la prima volta certo. che mi adopero sui libri di Margaret, nel senso che l'esperienza di Non ti muovere, poi c'è stata l'esperienza di Venuto al mondo e così via. Io più che la parola riduzione mi piace usare la parola evoluzione. Nel senso che c'è una scrittura letteraria. Margaret tra l'altro è dotata di una scrittura molto visiva, quindi che naturalmente fa pensare al cinema, fa pensare alle immagini. Le parole spesso nella scrittura di Margaret mi piace pensare che esplodano. E allora voglio pensare che le schegge di questa esplosione, di queste parole, sono le immagini che io mi diverto ad andare a rintracciare, a dissotterrare nascoste dentro quelle parole. Poi non è detto che dietro la parola amore ci sia per forza l'immagine di un momento d'amore, magari c'è l'immagine di un momento di rabbia, poi sì. Anche quella è evoluzione. E poi c'è il, come dire, c'è il regalo della storia. La storia è il regalo che fai allo spettatore, che fai al lettore, e dentro questa storia, come una specie di grande cavallo di Troia, nascondi la tua visione del mondo, il tuo modo di essere, le tue considerazioni, i tuoi giudizi a seconda di... Qui, come dire, la prima considerazione nasce dal titolo, Nessuno si salva da solo non è certo un titolo, come dire, neutro. È una visione, è già una del presa mondo, di posizione. No? È una presa di posizione. Mi sono sempre immedesimato in quel signore che si ferma con la macchina al semaforo, alza gli occhi, guarda il manifesto e legge Nessuno si salva da solo. E ho sempre immaginato chissà che pensiero gli scatta. Ti verrebbe voglia di infilarti nei cinema col pubblico? Magari lo fai già per sentire gli umori. No, non l'ho mai fatto, ma ci ho avuto una grande voglia ogni volta. Perché deve sì. essere. Perché poi te lo raccontano, ma sì, non sì, lo sì. senti. Ho provato a spedire mio figlio che si è rifiutato. Giustamente. Cioè, il ruolo del figlio è quello di dire assolutamente non ci no, penso non proprio. Ci penso nemmeno. Così è. Mi hai svelato poco fa che hai aperto un account di Twitter. La tua figlia le mie figlie mi hanno detto: si fa così, papà. Se non fai così, sei fuori. Certo, vabbè, bisogna. Allora sto dentro, io devo dire. Bisogna. Però il nome l'ho scelto io. Lo possiamo dire. Come no, possiamo certo. dire Cast a Creep. Cast a Creep. E non è un caso, perché abbiamo ascoltato una parte del trailer certo. di Nessuno si salva da solo, Creep dei Radiohead. Certo. E a questo punto io voglio sapere perché, se ti piace, perché questa canzone. Questa l'abbiamo scelta per, come dire, come messaggio storico straordinario. È una canzone che c'ha dentro rabbia, desiderio, malinconia, però voglia di una strana nevrotica resurrezione, e questi sono secondo me i temi del film. Però il film, questo è un argomento che mi piace molto, di cui mi piace parlare. Il film io l'ho costruito come una specie di canzone. Per me il ristorante è il ritornello del film. certo. Ogni tanto si ricanta e ogni volta che si ricanta quel ritornello del ristorante aggiungiamo uno strumento. Prima un semplice pianoforte, poi ci aggiungiamo una chitarra, poi una batteria e così via. Questa è un po' la struttura. Per questo che ho scelto canzoni che ogni tanto, come dire, voltassero una pagina. Più che canzoni ho scelto delle voci, non a caso voci di poeti e non voci di cantanti e basta, perché Leonard Cohen, perché Asaf Avidan, perché Tom Waits, Amedeo Minghi, Lucio Dalla. Tra poco parleremo ancora di Lucio Dalla. Sì. Il caso ha voluto che il 4 marzo c'è questa straordinaria giornata su Lucio a Bologna, dal quale io sono invitato e andrò a partecipare in questa specie di omaggi dentro la casa di Lucio, itinerante la casa di Lucio, sì. E reciterò i versi della Sera dei Miracoli. Insomma, una bella cosa. A proposito di grandi maestri della musica, tu ne hai scelto uno come attore però in questo film. Certo, come ti è venuto in mente questo vecchione attore? Spettacolare Roberto. Bravissimo, professore, tra l'altro. Professore di italiano, no? Sì. In realtà uno studentaccio, geniale in realtà. Avrei potuto, come dire, avere attori straordinari, grandi attori che potevano fare, come dire, con efficacissima pertinenza sindacale, diciamo così, il ruolo. E invece lui porta un panico perché non l'ha mai fatto l'attore, quindi porta quell'incertezza meravigliosa di uno che ha paura di sbagliare. Non ha sbagliato perché è un fenomeno. Ed era molto importante trovare un'anima pura, uno sguardo puro, sì. Perché quel mentore là è quello che in qualche modo lui con Angela Molina, con sua moglie, quella coppia lì è molto decisiva. In realtà è il terzo film. Io vorrei un film con la storia di questa coppia straordinaria, perché dai due pennellate di quella vita lì, e vorresti entrare e sapere tutto di quella coppia lì. Quattro cose dicono della loro vita, del dolore e della gioia, eppure loro hanno resistito, stanno lì in trincea. E tu di questa coppia che passa vorresti sapere tutto, però è comunque una coppia che passa, quindi il film non ti può concedere forse chissà se esiste, perché poi in realtà qualcuno noterà che le scene girate e raccontate delle due coppie che passeggiano non hanno testimoni, non ci sono comparse che girano. Forse se lo sono sognato da lei Gaetano e si sono risvegliati sotto casa. Che meraviglia, quella preghiera laica davanti alla Galleria d'Arte Moderna di Roma, ma chissà non ci sono testimoni. Stiamo facendo venire una curiosità in chi ci sta ascoltando. Ci manca ancora qualche giorno perché esce il 5 marzo. Io ti posso dire da spettatrice che ero lì a guardare Vecchioni e dicevo, ma sarà una presenza muta o parla? È bravissimo, è formidabile. Basta, una nuova carriera. Sì, è un fenomeno. Adesso veramente lo prendo in agenzia. Guarda, sottoscrivo, te lo consiglio, bravissimo. Veramente geniale. Scegliere i volti di Delia Gaetano, poi soprattutto per davvero una storia così amata, un romanzo così noto, certo, non è facile, perché chi scrive ha in mente delle persone, lo sguardo del regista inevitabilmente è un altro, e poi due attori così noti come Jasmine Trinca e come Riccardo Scamarcio, non è nemmeno facile sceglierli, perché sono due attori ormai con un immaginario allegato a loro così certo, grosso. Sì, sì, come dire, potenti ma nello stesso tempo da qualche parte anche ingombranti, no? Sì. Per cui devono... Però io sono stato convinto di loro due da subito, in realtà già dai tempi della scrittura avevamo già individuato questi volti qua, questi comportamenti, perché l'attore ha un comportamento, e poi insomma al di là del talento che naturalmente c'è e ci deve essere, ma c'è, scelgo gli attori anche in base a una sostanza umana, una qualità umana, a un loro talento, e se io intravedo un talento troppo, troppo rigido e poco generoso, a me non interessa, a me interessa che il talento sia fragile, perché fragile deve essere il cristallo, che rischia di rompersi, ma se non si rompe, come dire, è l'elemento più potente, no? In qualche modo. E loro sono stati bravi, molto bravi in questo, sono stati molto appunto generosi, hanno preso il rischio, ma il rischio non è spogliarsi e recitare nudi quella scena, anche quello è un rischio, ma il vero rischio è in qualche modo denudarsi dentro, no? E accogliere questi personaggi a anche, come dire, approfittando di loro, nel senso che un attore se lo fa con intelligenza capisce anche qualcosa di sé quando recita un personaggio. Sì, è una chiave per capirci qualcosa anche un cassettino dentro della propria vita. Quello è il patrimonio dell'attore quando recita in un film o recita un personaggio. Cosa ti porti a casa poi alla fine? Ma a te non è mai venuta voglia di dire in questo film mi trovo un ruolo e... In questo? Sì. No, no, che mi piaceva veramente assistere. C'è, adesso alimentiamo un po' una piccola mitologia. Io faccio un passaggio scocchiano, ma non lo dico. Allora apro io il 5 marzo vado a rivederlo perché me lo sono perso. Io ci sono nel film, faccio una cosa, ma chissà devo andare a rivedere, vado a vederlo con il blocco di appunti e poi ti dico se ti ho trovato. Abbiamo mi scrivi su Castecrip su chiocciola Castecrip. Abbiamo una brevissima pausa perché a quest'ora in tanti sono in macchina che stanno viaggiando e sentiamo come va la situazione su strade e autostrade. Io poi da pendolare adoro il traffico e ci ritroviamo tra pochissimo. Il sabato del villaggio. Ti chiedi mai come sarebbe stato? Se invece di mollare avessimo resistito. Se potessi tornare indietro. Gireresti i tacchi. Rifarei quasi tutto. Era un grande amore e ci siamo amati tanto. Ci siamo amati tanto. Dillo. Cosa devo dire? Che non mi ami più. Dillo tu. Io non ce la faccio. I'm a creep, I'm a weirdo. L'abbiamo detto. Per chi si fosse messo in collegamento solo adesso, Radiohead, Creep, il trailer è quello di Nessuno si salva da solo, 5 marzo al cinema. Io sono molto contenta perché abbiamo negli studi del Sabato del Villaggio il regista di questo film, che è Sergio Castellitto. Ancora buongiorno Sergio. Buongiorno ancora a voi. Radiohead 24. Radiohead sono fantastici. Beh, infatti quando ho visto il trailer, perché ho visto il trailer prima di vedere la proiezione, ho detto c'è qualcosa qua che già sì. Secondo me mi offre qualcosa. Sergio, stavamo parlando durante la pausa, perché sì, io adoro le indicazioni del traffico quando guido, poi per il resto mi distraggo, io sono una confusionaria. Mi lanciavi l'amo, amore e crisi. Effettivamente non è facile in questi periodi non proprio facilissimi, e soprattutto nei quali non riusciamo a capire se siamo arrivati alla fine, se c'è la luce in fondo al tunnel, o a volte è un miraggio perché pensiamo sempre di vederla e si allontana sempre. Sì. Un film d'amore in questi giorni? Beh, sai, infatti qualcuno pensa di poter combattere la crisi, perlomeno dal punto di vista del cinema, con questa nevrotica inflazione di commedia a tutti i costi, no? Poi in realtà anche il fatto che molte di queste commedie poi non siano andate in un certo modo ti fa capire che forse c'è bisogno di ridere, c'è tanta voglia di ridere, ma c'è anche tanta voglia di penare da qualche parte, di arrabbiarsi, di infilarsi un po', il dito dentro la pancia e dire ma che c'è? Quindi di farsi delle domande, perché soffrire o comunque in qualche modo arrabbiarsi significa farsi delle domande. Io, anche a rischio di farmi ridere dietro, dico che ho fatto un film politico, perché non c'è niente di più politico della nostra intimità. Questa crisi, dice Cianor, ha devastato il tessuto economico, le imprese hanno chiuso, la gente per colpa della crisi non ha più voglia di fare l'amore. Sì. E la gente torna a casa la sera, non c'ha più voglia di parlare con la propria donna, col proprio uomo. Cioè la concatenazione di tutto questo arriva alla nostra psiche, c'è poco da fare, alla nostra interiorità. Per cui, per quello che l'unica cosa che comunque riproduce energia è parlare di amore. Anche perché ci ha vinto un Oscar, mettendo in scena di che cosa parliamo quando parliamo quando d'amore. Parliamo d'amore. Di che cosa parliamo quando parliamo d'amore? Sai che ne parleremo in questa puntata di questo di cosa parliamo quando parliamo d'amore di questo Carver, ne parleremo poi più tardi, perché è uno degli argomenti proprio di questo pomeriggio. Mi hai letto nel pensiero, che poi è facile far pagare i 7 euro del biglietto se fai la super commedia divertente. Capisci? O coi volti televisivi, o con... Certo. E poi anche lì però i dati del cinema dicono che non funziona neanche più così tanta orologeria. No, no, assolutamente no. È questo. Per questo che io sono molto felice, molto fiero di questo film. E anche delle reazioni che comincio a sentire, come dire, sul web, sulle varie piattaforme e quant'altro. Avverto che c'è questo desiderio, questo bisogno di parlare di noi, quindi parlare di loro, attraverso questo micidiale, spettacolare e ferato specchio che è il cinema. Capito? Questa finestra aperta, ecco, questa è una finestra aperta, non ho voluto fare uno specchio attraverso questo film. E per quanto riguarda il mezzo del cinema, che è ancora un mezzo straordinariamente affascinante, magico, ai ragazzi bisogna forse ancora spiegarlo che si va al cinema, si va al buio, si spegne la luce e inizia il film in quel momento, perché le nuove abitudini sono un po' diverse da certo. Questo, invece bisogna ancora... È ancora davvero magico il cinema, visto che adesso si dice le serie TV sono il nuovo cinema e tu sei stato e sarai protagonista di una delle più belle di questi anni, che è In Treatment, dobbiamo dire. Sì. C'è ancora però la magia del prendere, uscire e andare al cinema. Io penso di sì, perché c'è ancora la magia dell'archeologia. Ma l'archeologia è un DNA fondamentale della nostra vita, è il nostro passato e quindi è ovvio che è il nostro futuro, no? È una centralità. Io oggi stamattina mi sono incantato a un certo punto davanti al televisore, ho visto una scena fra Walter Chiari e Aldo Fabrizi in un vecchio film degli anni 50, una commediola, una commediaccia. Beh, insomma, due minuti di cinema, di teatro, di recitazione indimenticabile. Ecco, bisogna andare a riscovare. Però in questo senso il film Nessuno si salva da solo è proprio, credo che abbia un buon DNA universale. I 35enni si identificano in questa storia? Sì, certo, la famosa generazione del remake, quelli che sono cresciuti fra la caduta del muro di Berlino e la caduta dell'11 settembre, non hanno visto altro che calcinacci. Ma io, che sono molto più grande di loro, rintraccio, riconosco, non un'autobiografia, perché a me non mi è successo per fortuna quello che è successo a loro, ma però dal punto di vista sentimentale sì. Dal punto di vista emotivo è successo anche a me quello che è successo a Gaetano, e forse sta per succedere anche a mio figlio che ha 20 anni. Ci sono anche varie generazioni nel film, perché ci sono anche i genitori, le storie anche lì pennellate, perché un film è un film, però perché non è una fiction, certo, perché non puoi sviluppare tutti i personaggi, però le pennellate, una scena anche... serve a raccontare una cosa, cioè un one shot one meaning, uno per ogni sentimento, per ogni colore della loro vita insieme. Abbiamo toccato un po' il futuro del cinema, così, con qualche pennellare, anche in radio bisogna pennellare, perché sennò non è che si può. mi dicevi prima, abbiamo bevuto un caffè, che tu hai un figlio che studia cinema, quindi sì. Ancora sì, non gli hai detto no, sto mestiere, basta? No, io, per carità, io gli ho semplicemente detto fai veramente, hai il privilegio e la fortuna di poter scegliere cosa vuoi fare. E non è poco, sì. Guadagnatelo, sì. Questo privilegio. Quindi intanto vai a studiare. Ti capisco, perché guarda, anche i miei genitori mi dissero così, te lo facciamo fare, però poi vediamo i risultati. È una bella riuscita, quindi ogni tanto mi dicono, cioè mi dicevano, poi vediamo i risultati, e io mi sono sentita responsabile, mi sono sentita molto molto responsabile. 5 marzo, Nessuno si salva da solo, ti chiedo solo un'ultima cosa, cosa vorresti che si portassero a casa gli spettatori che entrano nel cinema? Aspettano che si spenga la luce, vedono 1:40 di film, e vorresti che uscissero con... Io vorrei che per quello che ho regalato, credo di aver regalato un finale, come si dice, come si usa dire, abbastanza, non dico aperto ma socchiuso, ecco, una finestra, una porta semiaperta, perché insomma non penso... già la vita ci punisce abbastanza, il cinema ci può far soffrire, penare, arrabbiare, divertirci, però insomma una possibilità, un'opportunità ce la deve lasciare. E allora vorrei che scrivessero loro, gli spettatori, l'ultima riga della sceneggiatura. E allora a quella coppia che esce, a quella coppia di ragazzi, di chi saranno, che esca dalla sala mentre raggiungono la loro macchina, vorrei che uno dei due dicesse no, figura, secondo me questi non si vedono più, e l'altro dicesse tu non hai capito assolutamente nulla, questo domani sta qua. Ah certo, il dibattito, bello bello che si portino a casa la riflessione, certo. Che bello, mi piace l'idea, certo. Della riflessione che continua. Soprattutto quando tornano a casa, insomma, si guardano in faccia e dicono anche tu quella volta però Ah, invece pensavo che dicessero che si guardano in faccia e si dicono vabbè, fa niente, la crisi. Nessuno si salva da solo, facciamoci uno spaghetto. Esatto. Grazie, grazie a Sergio Castellitto per essere stato con noi al Sabato del Villaggio. Adesso noi, io l'ho detto, parliamo di lui, del grandissimo. Sono molto contenta di festeggiare, io dico festeggiare il compleanno. Ecco qua. Lucio non si è mai preso sul serio. Lucio non si riconosceva per radio. Io credo che Lucio Dalla sia stato un personaggio assolutamente anomalo. Mi ricordo tutta la mia vita con Lucio e con la sua musica. Quante volte nelle canzoni di Dalla c'è domani, domani, domani. Si intitola Senza Lucio, dove Lucio è ovviamente Lucio Dalla, un documentario che ci porta a riscoprire, a scoprire tante cose che non sapevamo, appunto, del grande, grandissimo Lucio Dalla che ci manca ancora. E noi abbiamo il regista, un regista che conoscono bene come critico cinematografico gli ascoltatori del Sabato del Villaggio. Buongiorno Mario Sesti. Buongiorno a voi, cara Marta. Mario, devi smettere i panni del critico e mettere quelli del regista questa volta, perché mi devi raccontare com'è nato questo Senza Lucio. Beh, dunque, innanzitutto c'è una cosa banalmente personale. Io e Lucio Dalla siamo stati amici per più di un decennio, perché Lucio aveva una passione feroce per il cinema, e una volta ci siamo incontrati per caso a casa di amici. Lui, puntandomi il dito contro, mi ha detto: tu sei quello che ha fatto il film su Fellini. E io ho fatto un film su Fellini che era stato a Cannes, aveva avuto una certa notorietà, e naturalmente il pensiero stesso che Lucio Dalla avesse visto un mio film ha alimentato in maniera irresponsabile il mio narcisismo per diversi giorni da quel momento in là. E avevi ragione. Che cosa è successo? Che da di lì in poi abbiamo fatto decine di cose assieme. Lucio, c'è un festivalino a Ventotene, vuoi venire? Sì, assolutamente, arrivo con la mia barca. Lucio, faccio una cosa a Pantelleria, presentiamo il film di Mani che lì non è uscito, vuoi venire? Assolutamente, quando si parte? Lucio, devo fare gli speciali del DVD del film di Sorrentino, ti piace se vengo a Bologna e ti faccio un'intervista? Assolutamente, aspetta che vedo l'agenda. Era tutto così. No, uno si immagina che Lucio fosse uno irraggiungibile, no? Oppure che uno debba passare attraverso chissà quali trafile burocratiche. Invece, anche quando andavamo in giro per strada, no? Era molto divertente, perché tutti naturalmente si avvicinavano con il loro cellulare e con umiltà dicevano: posso fare una foto? Lui diceva: guarda, te lo stavo chiedendo io. E così poi, dopo molto tempo, è nata l'idea di riprodurre esattamente questa sensazione, no? Che è una sensazione allo stesso tempo molto dolorosa e molto dolce, no? L'idea di ricordare qualcuno, ma anche la sua assenza, la sua scomparsa, il suo fatto di non esserci più. Difatti, da un certo punto di vista, Senza Lucio, il film somiglia molto al suo titolo, da questo punto di vista. Tu hai scelto delle voci per raccontare Lucio Dalla. La voce che ci accompagna è quella di Marco Alemanno. Esatto, è stata l'altra decisione. Naturalmente sono diventato amico anche di Marco, perché erano inseparabili. Tutto questo che ti ho detto prima l'abbiamo fatto praticamente sempre insieme anche a Marco Alemanno. Da una parte, naturalmente, Alemanno era quel sentimento che ci dicevo prima, ma nell'ennesima potenza, cioè il massimo di rammarico, di nostalgia, di perdita, era proprio attraverso il suo sguardo. Dall'altro, se vuoi, è un banale espediente letterario, cioè è Watson che racconta Sherlock Holmes, diciamo, no? Oppure, per citare Il nome della rosa, Azzo che racconta Guglielmo di Baskerville. Mi sono servito di questa cosa qui, ma proprio perché secondo me tutti siamo un po' come Marco Alemanno, rimasti orfani di un autore di canzoni che, come si è detto fino alla banalità, ma è una verità assoluta, ognuno potrebbe rifare la propria vita attraverso una compilation di canzoni di Lucio Dalla, no? Quella in cui ho fatto la maturità, quella in cui mi sono sposato, quella in cui mi sono separato, quella in cui ho trovato lavoro, quella in cui l'ho perso, eccetera eccetera eccetera. Questo sentimento qui, appunto, di scomparsa, di dolcezza, che appunto di dolore ma anche di tenerezza, sia il modo migliore per ricordarlo e per continuare ad avere un rapporto con lui. Posso dire un film da vedere? Lo posso dire. La prossima settimana, allora, nei cinema, tante sale italiane, questo fa capire anche ancora una volta l'amore di tutti per Lucio Dalla. Senza Lucio, grazie per essere stato con noi, al regista Mario Sesti. A presto, grazie, Mario. A ciao Marta. Il Sabato del Villaggio. che bello, abbiamo parlato tanto di cinema in tutta la prima mezz'ora del nostro Sabato del Villaggio. C'è stato con noi in studio Sergio Castellitto, che ha una voce, io lo avrei lasciato parlare per 2-3-4 ore, tutto il palinsesto di Radio, ha una voce bellissima, Sergio Castellitto. Bello, bello parlare di questo film che uscirà, ve lo ricordo, il 5 marzo, nessuno si salva da solo, quindi è un consiglio preventivo per gli acquisti mentali. Facciamo la radio per Sergio Castellitto. Ah, una Castellitto's Radio Station, no? Allora, la premessa è che Pietro Lacorte in regia ha detto, Sergio Castellitto ha una voce bellissima, quindi anche tu, virgola, Enrico Pagliarini, devi essere all'altezza. Ma Enrico Pagliarini, anche lui, The per Voice. La voce un po' pacata. The Voice. Aspetta Enrico, che per il tuo momento della tecnologia e soprattutto delle prove impossibili, perché non, adesso non vi dico ancora cosa si è portato. Abbiamo parlato di cinema, adesso il cinema lo facciamo. Ecco. Ho una musica per introdurti, come al solito. Senti qui che cosa ho scelto. Sentiamo. Mi manca un chilo di pace integrale e due etti di comprensione. È un cartone d'amore a lunga conservazione. Non rimane che fare la spesa. È perfetta. Cristian Goldoni in redazione. Bravo, Cristian. Perché non rimane che fare la spesa. Enrico Pagliarini, questa è la spesa di Marta sui tubi. Enrico Pagliarini si è portato alla spesa. Cioè, ma sul serio, questa volta sì. Si è portato alla spesa di studio. È una spesa mini, ho fatto apposta. Hai fatto la spesa apposta? Sì, sono andato speso proprio 3-4 euro. Perfetto, sì, sei portato pagato delle con cose. Carta di credito, io pago tutto con... Anch'io, contanti anch'io. Non a volte mi rendo conto di non avere un euro nel portafoglio, sì. Imbarazzante. Perché allora, ti sei portato la spesa? Ci sarà un perché. Allora, ecco. Io passo, adesso non moltissimo tempo, però sono abbastanza attento alle etichette. Si dice spesso, guardate che cosa c'è dentro i prodotti per non acquistare delle porcherie. Mm-hmm. Poi su alcune cose sappiamo benissimo, cioè se prendiamo della cioccolata oppure dei prodotti con tanti zuccheri, insomma... Alcune cose le sappiamo. Però se io compro dei biscotti vorrei sapere se c'è esatto. Olio del motore. Esattamente. Uno compra una cosa e può pensare che sia una cosa genuina, fatta in modo artigianale, e poi scopre che dentro ci sono delle schifezze, quindi è meglio magari farsi la torta in casa. Però visto che tutti fanno la spesa e comprano un sacco di prodotti, per non perdere troppo tempo guardando le etichette, ci sono degli aiuti tecnologici digitali. Allora oggi vorrei parlare di questo aiuto, che è un'applicazione molto semplice, gratuita, che esiste sia per Android che per iOS, e si chiama Edo, quindi diminutivo di Edoardo, per farci capire, sì. Ma Edo immagino che sia legata al cibo, perché sostanzialmente è un'applicazione che ci spiega che cosa stiamo per mangiare, oppure che non stiamo per mangiare perché decidiamo di non mangiarlo perché magari non fa bene alla nostra dieta. L'applicazione ci chiede sostanzialmente due cose, sì. La nostra età e il nostro sesso. Quindi da lì, perché? Perché in base all'età e al sesso ci dà un consiglio di massima sui prodotti e ci indica un parametro, cioè un indice che ci viene calcolato in base al prodotto. Quindi non è detto che un prodotto che io che va bene per me. Scannerizzo, perché poi spiego cosa fa questa applicazione, mi dia un indice uguale al tuo. Non è detto. Allora, è molto semplice, perché noi con questa applicazione, con Edo App, inquadriamo il codice a barre è noto, tutti certo. lo conoscono, del prodotto. Non dobbiamo fare niente, nel senso che lo inquadriamo, adesso facciamo la prova. Io qui ho portato uno yogurt, una mozzarella, sì. Che dopo vado a mettere in frigorifero. Certo, perché, infatti stavo dicendo, se poi rimani qua quella mozzarella va. E poi anche se mi ha spiegato Nicoletta Carbone, sì. Cuore e Denari, che la mozzarella se poi la mangi stasera la puoi lasciare anzi, la devi lasciare. Sì, però io visto che non so se la mangi stasera. La vai a mettere in frigorifero. Sì, la mozzarella, direbbero i miei amici campani, che bisogna lasciarla fuori almeno 2 ore prima di pranzare o di cenare. Dunque, ho delle merendine, ho preso 3 prodotti. Facciamo la prova. Ok. No? Facciamo la prova. Allora, yogurt. Io sta inquadrando. Ho aperto l'app Edo App. Scansiono un codice. Clicco, scansiono il codice, inquadro il codice con la fotocamera dello smartphone, e l'applicazione mi dice che lo yogurt ha un indice per me 6,9. E vado a leggere quali sono i pro e i contro dello yogurt. Uh-huh. Allora, non ci sono molti contro, sono quasi tutte cose positive, 6,9 è un buon indice, da 0 a 10. Ah, da 0 a 10? Mi spiega che come è fatto lo yogurt e mi spiega come è fatto lo mi spiega cos'è lo zucchero bianco. Ah, okay. Dopodiché non mi dice altro perché effettivamente ci sono pochi contro. Allora, prendiamo la mozzarella. Facciamo la prova con la mozzarella. Perfetto. Allora, inquadra il codice a barre della mozzarella. Possiamo inquadrare in qualsiasi modo, anche alla rovescia. L'applicazione è abbastanza intelligente, capisce tutto. Allora, mozzarella, fior di latte. Non ho preso una mozzarella campana perché a Milano non si trovano delle mozzarelle campane. Si trovano andandole a cercare, ma insomma. Sei andato in un supermercato normale. Sì. Mm-hmm. 6,1 pro e contro. Allora, molte proteine. E se io voglio poi vado a leggere che cosa significa che ci sono molte proteine, fermenti, poi c'è una voce, un mondo di formaggio, ci sono un po' di informazioni sulla mozzarella. Ok. E qui siamo ancora su prodotti tutto sommato che non, insomma, oltre che di buona qualità, che sono sani, perché abbiamo un indice che è superiore al 5. Attenzione, prendo delle merendine a caso, anzi merendine che non prendo quasi mai, quindi non le conosco. Allora, le inquadriamo il codice a barre, attenzione. Lo sta facendo davvero. Che indice ci dà? 3. Attenzione, andiamo a leggere. Vanno benissimo. Pro e contro, è un disastro, eh? Ci sono un sacco di punti esclamativi rossi. Però che sono buone. Ma... Sì, probabilmente sì. Allora, ci sono un sacco di punti esclamativi, per ogni punto esclamativo poi c'è la spiegazione. Comunque, molti zuccheri, vabbè, qui uno poteva dire, vabbè, ok. Molti grassi, molti grassi saturi, e c'è la spiegazione. I grassi saturi sono una particolare categoria di grassi, tipica degli alimenti di origine animale, bla bla bla bla bla. Molte calorie, oli e grassi non idrogenati, e anche aromi, tutti punti esclamativi rossi, quindi non, magari io le regalo poi qui in redazione a qualcuno. Perché non hai più voglia di mangiarle. Molti carboidrati, questa è una informazione che ci dà, lecitina, sciroppo di glucosio fruttosio, frutta candita, bla bla bla, insomma tutte queste cose. È un'applicazione molto utile perché, dicevo, evita che noi ci fermiamo a leggere l'etichetta. Basta inquadrare il codice barre anche prima di comprare, naturalmente. Certo, ma al supermercato puoi farlo direttamente se qualcosa. Allora, diciamo che per le merendine è facile, per altri prodotti possiamo avere il dubbio. Sì, sì. Luciano Venezia, ciao Luciano, benvenuto a Radio 24. Ciao a tutti. Luciano Venezia è uno dei quattro fondatori, perché questa applicazione nasce da una giovanissima startup. L'avete lanciata su Android da pochissimo, su iOS da quanto tempo? Parliamo di mesi, giusto? Sì, iOS è uscita inizio dicembre, quindi è davvero pochi mesi. Senti, allora, per Windows Phone e per adesso, visto che Pietro Lacorte è un Windows Phone fan, non ci sono alcuni non ci sono progetti. Quanti prodotti avete catalogato? Perché naturalmente io inquadro il codice a barre e nel vostro database ci deve essere il prodotto corrispondente. Quanti ce ne sono in archivio? Al momento abbiamo circa 10.000 prodotti, ma aumentano di giorno in giorno, perché ad esempio nel caso in cui un prodotto non sia presente all'interno del nostro database, l'utente può mandarci le foto del prodotto, in questo modo noi le riceviamo e possiamo inserirlo in tempi brevi, quindi ci facilita a noi il lavoro e ne avvisiamo l'utente con una notifica, appunto, dicendogli che il prodotto è disponibile. Sì, infatti si può anche cercare il prodotto direttamente dal database. Uno scrive, non so, miele, e ci sono la lista di mieli, perché divisi per marche uno si va a vedere se quel miele corrisponde alle caratteristiche che lui desidera per il prodotto. Dunque è un'applicazione, ricordo, gratuita. Sostanzialmente questo indice, come lo chiamate questo indice? Sì, no, noi lo chiamiamo indice Edo. Ah, indice Edo, ok. Come l'avete studiato? Infatti, sono come curiosa. Funziona, Sara? Allora, noi di fatto consideriamo tutte quelle che sono le informazioni presenti sulle etichette, quindi ingredienti, valori nutrizionali, certificazioni, e il nostro algoritmo che abbiamo sviluppato appunto noi all'interno di Edo tiene conto di un principio base, che è quello della dieta equilibrata, quindi praticamente ci rifacciamo a dei dati presi da enti come ad esempio la Sinu relativamente ai fabbisogni che ciascuno di noi ha e che variano da persona a persona, e in base a quanto un prodotto copre rispetto a un fabbisogno noi calcoliamo questo indice. In più, per quanto riguarda gli ingredienti, siamo molto attenti a tutti gli studi che vengono fatti in modo da tener conto di quelli che sono gli ingredienti o gli additivi soprattutto da evitare. Bene, Luciano, grazie, anche perché non c'è molto altro da aggiungere. No, perché io è molto sono semplice, io sono tutto... una curiosità, sì. Cioè, con che spirito l'avete creata? Perché hai detto che è un'app gratuita, qual è lo spirito da cui è nato questo esperimento? Allora, diciamo, l'idea è nata perché i tre informatici all'interno del team, quindi io e i miei altri due colleghi, non avevamo minimamente idea di cosa ci fosse all'interno degli alimenti, soprattutto diciamo quelli lì che vengono consumati dagli studenti, quindi un po' di prodotti. bravi sti ragazzi che hanno le idee giuste. E allora diciamo un po' per risolvere questo problema che era comune tra tutti noi, abbiamo deciso che facciamo uno strumento che possa aiutare tutti a capire davvero quello che va a mangiare. Poi c'è un'idea di business però dietro, immagino. Certo, beh, quello ovviamente, infatti siamo già al lavoro ad una versione premium dell'app in cui terremo conto di numerose altre caratteristiche, ad esempio intolleranze, allergie, oppure stili di vita vegetariano, vegano, insomma veramente ce ne sarà per tutti i gusti. Bene, ma che hai altre curiosità? No, ho chiesto tutto quello perché mi piaceva lo spirito che c'era sotto questa applicazione, che io adesso scarico e poi la userò al supermercato e mi metterò lì a curiosare. Sì, fa niente, però... non importa. Grazie Luciano Venezia, che è stato con noi e che ha inventato questa applicazione che a me piace molto. Volevo solo dirti che Alessandra Tedesco, che dopo sarà qui per lo spazio dei libri, mi chiede di controllare se nella tua spesa, nelle tue merendine in particolare, c'è l'olio di palma, e che dice che però se le lasci qua lei non le vuole, quindi adesso ce le mangiamo tutte, ce le mangiamo noi, apriamo le merendine. Adesso andiamo a controllare dell'olio. Allora devo dire che usando la fotocamera, la videocamera dello smartphone, ci sono molte applicazioni che sfruttano e utilizzano il codice a barre. Io di simili fatte così, devo dire che Edo è fatta un'applicazione fatta molto bene, non ne ho trovate, ma cito un'applicazione che non è ancora diffusa. Alcune catene di supermercato ci permettono creare lo scontrino con lo smartphone, quindi io vado in giro per il supermercato, butto nel carrello i prodotti, li scansiono con il mio smartphone e poi con quell'applicazione posso fare il pagamento e uscire dal... Straordinario, praticamente sostituisce quei lettori di codice a barre che alcuni supermercati hanno, che ci permettono di farci da soli in self service la spesa. A me arrivano sempre io li uso sempre, poi arriva sempre qualcuno a sgridarmi perché sbaglio, passo due volte, non ho passato incastro, invece così più semplice. Enrico, abbiamo la pausa per le informazioni sulla viabilità, ci ritroviamo tra poco, anche perché ho un'altra curiosità, perché mai detto che una notizia da darvi. Ecco, c'è una notizia, okay. Quindi è tra pochissimo. Il sabato del villaggio. Labels of Love, cioè le etichette o l'amore? Questa era Fergie. Non l'avevi mai sentita? Lei dice che in realtà più che l'amore, a lei interessano le etichette, nel senso le firme. Quindi è perfetta per noi abbiamo parlato di etichette. Tra l'altro Pietro in regia diceva indice 3 per le merendine, non fanno bene e sono addirittura merendine blasonate, di marca. Fatevi una bella torta oggi pomeriggio, domattina, e mangiate la torta, tu che sei bravo, sabato prossimo ci porti la torta. Bravo. Enrico, mi hai detto che... mi hai detto allora, che c'è una notizia. Volevo dire che un paio di settimane fa, quando c'è stato Sanremo, abbiamo parlato di Music Match, questo servizio italiano che è leader nel mondo per i testi delle canzoni. Allora, da questa settimana questo servizio è stato integrato all'interno di Spotify. Quindi in Spotify, quando voi ascoltate una canzone, c'è il tasto testo. Tasto testo. Che è Powered by Music Match. che mi sembra una buona cosa. Altra notizia riguarda il 9 marzo, quindi avremo modo di parlarne poi nel mese di marzo, verrà presentato Apple Watch. Allora, non c'è la certezza al 100%, ma Apple ha invitato tutti i giornalisti a San Francisco per il 9 marzo, quindi è molto probabile che verranno date le date d'uscita e soprattutto alcune caratteristiche dell'orologio dell'Apple. Certo. Poi, altra cosa che vi volevo ricordare, da lunedì parte il Mobile World Congress a Barcellona, quindi grande fiera di telefonia mobile. Non ci aspettiamo grandissime novità, perché probabilmente il mondo degli smartphone ha già detto tutto quello che doveva dire. Oggi si sta spostando sempre più su servizi, applicazioni, certo, bla bla bla, però alcuni prodotti verranno presentati. Samsung e HTC partono già da domani con alcune presentazioni e poi vedremo, insomma, la prossima settimana magari vi raccontiamo qualcosa. Fantastico, la prossima settimana voglio sapere tutto per i telefonini, tutte le novità. Senti, Enrico, ci mangiamo la merendina, dai. No, aspetta, che io devo prima parlare di cinema. Allora, tu prepara le merendine, io adesso devo aggiornare tutti gli ascoltatori su quello che succederà al cinema questa Anche settimana. Anche se c'ha Indice 3, vabbè, fa niente. Ciao Enrico, alla prossima settimana. Ciao, ciao. Qual è il tuo desiderio? Call me crazy if you please. È un successo incredibile. Nel giro di poche settimane il libro di Giovanni Canton, Le leggi del desiderio, è andato praticamente esaurito. Voi avete paura di prendervi quello che vi spetta. Selezionerà 3 tra tutte le persone che parteciperanno ai casting di domani. Sto cercando persone disposte a tutto. Questo è il momento di tirare fuori le palle. Leggi del desiderio. Il titolo mi è piaciuto molto, ero molto curiosa di vedere questo film di Silvio Muccino, il ritorno di Silvio Muccino, attorno al quale ci sono molte curiosità, come uomo, come attore, come regista. Chissà cosa ne pensa il nostro Franco D'Assisti. Buongiorno Franco. Buongiorno, buongiorno Marta. Chissà, glielo chiediamo. Sì, faccio come Maradona, parlo di me stesso in terza persona. No, guarda, ne penso bene. Con qualche riserva, che tra l'altro ho espresso anche a Silvio quando l'ho incontrato qua a Milano, e che sarà tra l'altro nell'intervista che sentirete alle 18 alla Rosa Purpurea. Però ne penso bene, perché lui ha fatto secondo me un film molto coraggioso, un film coraggioso sotto il profilo della regia, perché ha un impianto totalmente non italiano, anomalo per il nostro cinema, per come lui mette in scena i suoi attori, per come gira la macchina da presa, per come inquadra, per come usa le luci, molto più vicino al cinema americano, e devo dire questo gli va dato atto. È un tentativo crescente che lui ha fatto e pian piano che sta facendo, e pian piano andando verso la maturità artistica sta riuscendo anche ad ottenerlo. Poi perché c'è un tema molto interessante, molto bello, questo di questo life coach, che in America è una figura, come dire, molto molto vista. Tra l'altro Silvio si è preparato con un vero, il più grande life coach di tutti. Ma insomma, cos'è un life coach? Poi l'allenatore della vita, è quello che ti dice come tirar fuori da te quello che ti fa andare più vicino ai tuoi desideri e che tu da solo non riesci a tirar fuori. E quindi è normale che il film diventi una sorta di analisi di come si fa a tentare di essere felici o realizzati, ma come si fa a farlo senza, cioè rinunciando in un certo senso a essere se stessi. Quale di queste due esigenze vincerà? E questo è un pochino il tema del film. E poi degli attori straordinari, devo dire che Carla Signoris secondo me in questo film, infatti, era proprio quello che volevo dire, sono impazzita per lei, bravissima. Oscar non protagonista, assolutamente. Sì, lei bravissima, ma tutta la compagnia regge molto bene, a partire dallo stesso Silvio Muccino, che a questo suo Giovanni Cantona, questo life coach un po' fanfarone, riesce a dare un'umanità che secondo me fa sì che non sia un personaggio ributtante. E quindi devo dire un film che mi ha comunque convinto, anche se forse questa ricerca eccessiva di romanticismo finale, un po' telefonato, si poteva evitare coerentemente con il film, che fino a quel momento era andato un po' in un altro modo. Pensavo che di pensarlo solo io da donna cinica, invece mi consola anche tu hai avuto questa impressione. E poi peraltro in epoca di 50 sfumature di grigio, delle quali non ci libereremo mai, cioè lei fa la scrittrice erotica. Ci siamo. A proposito di 50 sfumature, c'è finalmente un film che va un po' alla rincorsa al botteghino. Sì, assolutamente. Per quanto concerne il successo che sta avendo 50 sfumature, che è ancora clamoroso, perché ancora all'inizio di questo weekend, con la prima tornata di uscite di questi nuovi film, nessuno riusciva a scalzare ancora. Poi vedremo cosa succederà nel weekend. Però per esempio è arrivato sugli schermi SpongeBob, che nel primo giorno di programmazione era il secondo dietro 50 sfumature, e quindi era alla caccia. SpongeBob è un fenomeno strano, io non sono mai riuscito a divertirmi molto con il cartone di SpongeBob, anche se capisco che ci sono dei tratti di genialità, però è un tipo di comicità per me un po' fredda. Devo dire che però per molti è di culto assoluto, infatti in sala c'erano bambini, ma accompagnati molto volentieri da soprattutto dai papà, devo dire, in questo senso. Questo è un po' il nostro consiglio family di questa settimana: chi ha amato questa serie può tranquillamente approcciarla, anche perché in questo caso il film è per due terzi tutto cartone animato strettamente bidimensionale, come si vuole da tradizione, ma per un terzo diventa live action addirittura. Quindi i nostri diventano supereroi, tutto si svolge in California, e c'è divertimento anche visivo. Se avete amato quel tipo di comicità un po' nonsense, un po' sempre understatement, diciamo, è un film che vi convincerà, sicuramente realizzato in maniera molto, molto bella, insomma, visivamente. Altri film da segnalare questo fine settimana? Allora, questa settimana abbiamo parecchie cose, sono 10 film nuovi che arrivano in questo weekend. Io voglio segnalare un film italiano, sono tanti anche gli italiani, Legge il desiderio, meraviglioso boccaccio dei Taviani, che insomma sono sempre da vedere in ogni caso, e qui cercano di fare con il boccaccio del Decamerone quello che Martone ha fatto con Leopardi, se vogliamo, no? Cioè dare un'attualità a un classico della letteratura italiana. C'è Patria di Felice Farina, è un piccolo film però che mi tocca molto, perché è un film che racconta un dramma, se vogliamo, quotidiano. Poi qui a Radio 24, come dire, ne parliamo quasi tutti i giorni, c'è quello della chiusura di una fabbrica, di uno stabilimento, di tutto quello che comporta, non solo dei tagli ma anche della perdita di dignità, di senso della vita da parte di chi ci lavora. E questi tre personaggi, Francesco Pannofino, Roberto Citran, che mi fa sempre piacere vedere, è un grandissimo attore secondo me, Carlo Gabardini, che salgono sulla torre, e dalla torre non solo protestano ma vedono l'Italia degli ultimi 50 anni, cioè vedono perché siamo arrivati su quella torre, quali sono le nefandezze di questo paese che ne hanno impedito un'esplosione che era quella che si sarebbe potuta avere. E quindi un film molto, molto denso, che tra l'altro vedrà ospite qui alla Rosa Purpurea il regista Felice Farina, con il quale parleremo. E poi non possiamo non tifare perché c'è il nostro Carlo Gabardini, quindi per forza un po' di campanilismo. Spirito radiofonico. Cosa avrai ancora nella Rosa Purpurea, ricordo, dopo il GR delle 18? Guarda, Marta, sono contento di poter dire che abbiamo Peter Greenaway, che è uno dei più grandi maestri, certo, del cinema contemporaneo, sicuramente il più grande innovatore del cinema contemporaneo, uno che a un certo punto ha buttato via la grammatica cinematografica che c'era fino a quel punto e ne ha scritta una nuova, uno che dipinge film, lo sappiamo, lui ha un aspetto visivo molto forte, pittorico, soprattutto nell'ultima fase della sua carriera, ma lo ricordiamo anche per grandi film di racconto, di trama, come I misteri del giardino di Compton House, piuttosto che Il ventre dell'architetto, eccetera. Ebbene, il suo nuovo film Goldsius and the Pelican Company, che è un film sul mecenatismo nel Rinascimento, ma con pieno di scene di nudo, anche di sesso esplicito, è chiaramente un film da vedere in ambienti ristretti, infatti è girato in Italia nei teatri, e adesso è arrivato, anzi arriva dal 2 marzo nella Cineteca di Milano, allo Spazio Oberdan, per una tenitura piuttosto lunga, fino al 19 marzo verrà mostrato The Pelican Company, ma anche i più grandi capolavori di Greenaway, quindi una vera e propria retrospettiva. Bella e Greenaway sarà con noi a raccontarci, vi assicuro che è scoppiettante, perché lui poi è un gallese, no? È un signore gallese di oltre 70 anni, che parla un inglese veramente straordinario e che racconta con grande libertà dei concetti che altrimenti magari sarebbero anche quasi fra lo scabroso e il blasfemo, invece lui riesce sempre a fare tutto in punta di penna, davvero straordinario. Io ti ascolto sempre mentre torno a casa dopo il sabato del villaggio, quindi ascolterò con molto piacere anche Peter Greenaway. Grazie Franco, quindi l'appuntamento con te dopo le 18 e alla prossima settimana al sabato del villaggio. Ci sentiamo, un saluto a tutti. Il sabato del villaggio. eccoci qua con la seconda ora del sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è ovviamente, come sempre, il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali. Abbiamo parlato tantissimo di cinema nella prima ora del sabato del villaggio, ma anche di tecnologie con Enrico Pagliarini. Tra l'altro abbiamo parlato di questa app per leggere le etichette. C'è un ascoltatore che al 349-238-6666 ci chiede se c'è un'app analoga per Windows Phone. L'ho chiesto a Enrico Pagliarini, che è tornato ora in redazione, lo vedo alla scrivania, la cerca e sono sicura che la troverà. Vediamo se ci sarà qualcosa di analogo anche per Windows Phone. E poi Fabio Ciarla, che su Twitter mi segnala Beautiful, che è una app analoga per l'Inci, cioè i contenuti dei cosmetici. Adesso vado a provare anche questa. Cosa succederà però nella seconda ora del sabato del villaggio? D'ora in poi, insomma, fino alle 17, quando poi daremo la linea, ci autodaremo la linea, cambiamo abito e facciamo RadioTube. Beh, i libri del momento, perché si parla ancora di Elena Ferrante, ma anche, lo abbiamo anticipato con Sergio Castellitto, di Raymond Carver, e spiegheremo perché. Quel che resta del carnevale, ma anche come risparmiare su benzina e sui farmaci nella grande distribuzione, nel nostro spazio dedicato alle nuove tendenze. Gli anni 80, perché non si esce vivi dagli anni 80, non passano mai di moda, anzi, ora il pop di quegli anni vive una seconda giovinezza e sta per arrivare il Mamma Mia musical italiano. E lo scopriremo tra poco. Ma prima vi faccio una domanda alla quale sapete sicuramente rispondere: qual è il giorno più bello della settimana? E adesso a letto, bambini, spegnete la TV. Troviamo un posto dove stare solo io, solo tu. Sincronizziamo i cuori sullo stesso BPM. Silenzia il cellulare, che non ti serve a niente, a meno che non voglia fare una fotografia di noi che ci abbracciamo forte e decolliamo via. A bordo di un'astronave senza pilota, che punta verso galassie a cercare vita, come nei sabati sera in provincia. Come nei sabati sera in provincia. Sabato è il nuovo inno del sabato. Quando è uscita questa canzone, qualche giorno dopo è iniziato il sabato del villaggio su Radio 24, quindi ho detto vabbè, Jovanotti ha scritto l'inno non solo del sabato, il nuovo inno del sabato, ma anche della nostra trasmissione, il sabato del villaggio. Abbiamo incontrato Jovanotti, siamo riusciti a intercettarlo in questo giro vorticoso di promozione che sta facendo in questi giorni. Lo abbiamo incontrato e gli abbiamo chiesto: beh, c'è qualcosa di magico in questo sabato, in questo giorno della settimana? Ah, certo che c'è qualcosa di magico, qualcosa di... è come una piccola estate dentro la settimana, no? È come se dura... a un certo punto arriva l'estate, dura un giorno, poi sì, è così, è una giornata meravigliosa. Poi insomma, non sta a me ricordarvi quello che disse il vecchio Giacomino, no? Quando raccontava questo senso dell'attesa che c'è nel sabato, questo tempo sospeso, no? In attesa di una domenica che poi è meno convincente di quello che uno si aspetta. Quindi insomma, lui, adesso non voglio fare l'esegesi del sabato del villaggio, però io l'ho ribaltato poi questo concetto qui nella mia canzone, perché la mia canzone poi è anche c'ha una linea drammatica al suo interno, no? In qualche modo la mia canzone non voleva essere un pezzo festaiolo e basta, voleva essere un pezzo festaiolo mascherato, anzi voleva essere un pezzo drammatico, realista in qualche modo, mascherato da pezzo dance, perché poi la canzone parla del problema di quando il sabato è tutti i giorni, no? Nel problema di quando non c'è il lunedì, di quando magari manca il lavoro, manca quell'idea di noiosa, no? Di doversi svegliare presto la mattina, però poi a lungo, se uno tutte le mattine non ha il problema di svegliarsi presto, questo diventa un problema. E quindi parla di questo, parla un po' del paese, no? È una fotografia attraverso una piccola storia, un piccolo racconto. Però è importantissimo che poi il pezzo abbia comunque un DNA dance, perché per me il sabato poi è fondamentalmente quello nella mia vita. I miei ricordi migliori dei miei sabati sono dietro una console a mettere i dischi in discoteca. Grandissimo. Hai detto festaiolo mascherato, ed è un po' l'impressione che dai tu nelle tue 30 tracce e che hai dato nella tua presentazione. Arrivi sempre in motoretta, sgasando, puzzicchiando con la benzina, però

è importante. Quindi fare un po' Zorro fa parte del mio modo di approcciare le cose. Il sabato del villaggio. Sotto la curva del cielo, in un applauso di stelle, ho salutato la mia gioventù per ritornare bambino, procedendo in avanti senza passare dalla saggezza, masticando una gomma al gusto di bicicletta che non finisce mai, neanche se te ne vai, e lo ridico ancora per impararlo a memoria in questi giorni impazziti di polvere e di gloria, e lo ripeto ancora fino a strapparmi le corde vocali, ora che siamo qui, noi siamo gli immortali. Gli immortali, quanto mi piace, l'avrei ascoltata tutta, è il nuovo singolo di Lorenzo Giovanotti, Lorenzo Cherubini, che abbiamo incontrato, vi ho detto, per il sabato del villaggio. La cosa particolare di questo brano, che è il nuovo singolo, che da ieri è il nuovo singolo in rotazione nelle radio, è il video. Il video sarà online da lunedì, da dopodomani, ma online in una maniera molto particolare, sulla Giova TV, cioè il sito che è una vera e propria televisione di Lorenzo Cherubini, con una tecnologia particolarissima. Lo stesso Lorenzo ci ha spiegato come sarà questo video degli immortali. Sì, è una piattaforma che si chiama Interlude, che si è andata a vederla su internet, credo sia interlude.com, credo sì. E, non so, per esempio Dylan ha fatto un video di Like a Rolling Stone utilizzando quella tecnica, pure i Coldplay hanno fatto un'altra roba interessante, Kanye West l'ha usata. In Italia non era mai stata usata, quindi è un modo per farla conoscere a un sacco di gente, italiani che non la conoscono, insomma. Ma non credo che sia il futuro di internet quello lì, è semplicemente una giostra, una delle infinite giostre che stanno dentro sto Luna Park che è la rete, e che ti permette però, come una bella giostra, di provare un'emozione diversa, per cui tu hai la sensazione, anzi praticamente puoi montare il video in live, in diretta, ti monti il tuo video mentre il video va. Qual è la goduria di questa cosa? Che hai la sensazione di interagire con quello che succede, non è solo una sensazione, la realtà, interagisci con quello che succede, per cui è un po' come permettere tanti punti di vista sulla stessa canzone. È stato un gioco che poi ci è capitato di fare, perché questo video l'abbiamo girato nella mattina di quella che doveva essere la tempesta del millennio a New York, e invece poi questa tempesta non c'è stata, però il sindaco aveva bloccato tutto, quindi noi ne abbiamo approfittato per girare come fossimo Will Smith durante I Am Legend, però senza spendere 10 milioni di dollari, ma gratis. Così si fa, è così si fa. Quindi grazie al sindaco Di Blasio, che ha fatto come Marino a Roma. Marino, ti ricordi che bloccò tutte le scuole e poi non successe niente, no? Il Big Snow e Niente, non è successo niente. Poi secondo me tra un po' non bloccheranno, perché ormai non succede più niente e verrà giù il diluvio universale. Ti devo chiedere un'ultima cosa. La nostra trasmissione viene ascoltata da tantissime persone che sabato pomeriggio sono in giro in macchina a fare acquisti. Allora, uno ha dei soldini nel portafoglio e va a comprarsi le 30 tracce di Lorenzo 2015 CC. Ponendo che avesse qualche eurino in più nel portafoglio, e ponendo che qualcuno abbia ancora voglia di andarsi a comprare i supporti fisici, speriamo di sì, insieme al tuo album cosa deve comprare d'altro, di vecchio, di nuovo? Una cosa che hai nel cuore? Ma questo no, guarda, io credo che se uno deve prendere su un CD, insomma, andrei sui classici, no? Per cui, questo no. Ma insomma, guarda, vi consiglio non un classico, guarda, mi viene in mente, siccome parto proprio dal mio disco, c'è un ospite nel mio disco che si chiama Bombino, che è un chitarrista Tuareg, lui vive tra il Niger e il Mali, e il suo disco Nomad, prodotto dal chitarrista dei Black Keys, è un disco bellissimo che mi ha ispirato molto, tra l'altro, ma è un disco, non c'entra niente col mio sound, è un disco blues desertico, ma molto molto molto bello, per chi è un appassionato di musica off, diciamo così. Se no, consiglio sempre un bel Michael Jackson, una bella raccolta di Michael, non si sbaglia mai. quella proprio one, con tutti i singoli che sono arrivati al numero uno. Secondo me quella lì è proprio è uno, se la mette nella sulla fronte quando c'ha la febbre, ti passa anche. È verissimo. Domanda secchissima per finire. Hai parlato dell'Italia, della situazione difficile. L'Alba è già qua? L'Alba intanto è già qua sempre, avviene tutti i giorni, per cui l'Alba è uno stato che se ti perdi quella di oggi, comunque hai la fortuna di poter beccare quella di domani. Quindi sì, l'Alba è già qua, da un punto di vista concettuale sicuramente è così. Poi è vero anche che c'è un sacco di gente che all'Alba dorme e quindi se la perde e si sveglia che le cose sono già successe e dice mi sono perso l'alba, che era il momento più figo della giornata. La cosa interessante dell'alba è che dura molto poco e che poi in realtà la vivono in pochi, perché l'alba la vive chi va a letto molto tardi e chi si sveglia molto presto, per cui l'alba, proprio quel momento lì in cui sorge il sole, lo vedono veramente in pochi. E per questo che anche questo potrebbe essere anche tradotto da un punto di vista filosofico, no? In qualche modo è un problema questa cosa qua, perché non ci rendiamo conto che il sole è sorto, no? Che ogni giorno è proprio da Eccebombo. Però quel film lì ne diceva, no? Di grandi verità. Lorenzo Giovanotti, Lorenzo 2015 CC, un album immenso, 30 tracce. Mi ha fatto molto piacere incontrare Lorenzo, questo è stato l'incontro che abbiamo fatto con lui. Vi svelo il retroscena, proprio questa mattina abbiamo messo su Instagram e su Twitter anche una foto dell'incontro, ci siamo visti qualche ora fa, è stato un'organizzazione complessiva, ma ci tenevo davvero tanto a incontrarlo e a farvi sentire questo incontro. Adesso però dobbiamo voltare pagina. Lo so che a qualcuno sembrerà blasfemo perché parliamo di una musica completamente diversa, ma la verità è che dagli anni 80 non si esce mai e proprio mai. Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo. Al Sabato del Villaggio noi siamo sempre attenti alle nuove tendenze, abbiamo già parlato di questo recupero degli anni 80, ultimamente gli anni 80 vanno estremamente di moda e vanno di moda i cantanti popolari degli anni 80, ad esempio a Sanremo abbiamo riascoltato Albano e Romina, ci sono canzoni che ci sono rimaste nel cuore. Questa volta parliamo di un musical che è fatto con tutte le canzoni di uno dei gruppi più amati degli anni Ottanta e non solo, sono diventati una vera leggenda, un musical che è basato tutto sulle canzoni dei Ricchi e Poveri. Ci colleghiamo con il regista Alfonso Lambo, buongiorno Alfonso. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Alfonso, intanto ti chiedo qualcosa di questo spettacolo, come è nato, come si chiama, cosa succede in questo spettacolo che è un'idea secondo me divertentissima. Ma, innanzitutto grazie, e grazie dell'invito per questa intervista, perché è sempre bello parlare dei nuovi progetti. E sarà perché ti amo, così è il titolo dello spettacolo, che prende appunto nome dal titolo di uno dei brani più celebri di Ricchi e Poveri, se non il più celebre anche. È nato 7 anni fa, l'ho iniziato a scrivere su una spiaggia toscana, e ho iniziato a scrivere questa idea, questo testo di storie d'amore, di 4 storie d'amore molto particolari, molto divertenti, molto diverse l'una dall'altra, ma che vengono accomunate tutte dalla stessa cosa, che poi è l'amore. E poi improvvisamente hanno incontrato in modo magico le canzoni dei Ricchi e Poveri, e la cosa magica vera e propria è che alcuni brani sembravano scritti apposta per le storie raccontate, cioè dicevano determinate cose che erano legate perfettamente alle vicissitudini di questi personaggi, e quindi da lì è nata la magia. Io immagino che la gente impazzisca ascoltando queste canzoni, che tutti le sanno. Ma è meraviglioso, perché la gente canta. Noi abbiamo avuto una data test sempre al Teatro Nazionale a giugno scorso, e la gente cantava a squarciagola, perché si rendeva conto improvvisamente di sapere a memoria i testi di queste canzoni, e questo è veramente bellissimo, perché dimostra la forza di questi evergreen veri e propri, perché sono veramente delle canzoni che poi vengono anche riscoperte, perché ovviamente poi nello spettacolo sono riadattate a quello che è lo stile dello spettacolo, ai momenti, alle atmosfere, e vengono riscoperti veramente dei brani di grandissimo livello, come Cito, Che sarà, o La prima cosa bella, o Come vorrei, che sono dei brani veramente molto belli, e poi quelli divertenti pop più forti, che appunto Come sarà perché ti amo, o Mamma Maria, o Voulez-vous danser, e nuovi perché magari sono meno conosciuti e che la gente impara immediatamente, e questo è molto divertente, molto divertente. È una sorta, qualcuno l'ha paragonato a Mamma Mia, invece degli ABBA, Ricchi e Poveri. È un paragone che mi lusinga tantissimo, ma devo dire che ho preso assolutamente anche un po' spunto da quell'idea, che mi sembrava assolutamente geniale, forte, divertente, leggera. La gente esce da teatro che è divertita, ha cantato, si è scatenata, perché poi alla fine dello spettacolo devo dire che il pubblico potrà scatenarsi parecchio, e poi ci si innamora anche. Quello che è il nostro slogan è proprio lasciatevi innamorare, perché in realtà è proprio questo, i personaggi, tutti i personaggi a modo loro ci raccontano perché alla fine è meglio innamorarsi, no? Anche in modo molto semplice, molto diretto, perché raccontiamo proprio della nostra Italia, raccontiamo di quelli che sono i nostri vizi, i nostri difetti, in modo molto autoironico, e ci sono dei personaggi che sono proprio simbolo della nostra cultura, e quindi secondo me è veramente molto divertente, perché ci rivediamo in modo perfetto. Perfetto. Straordinario. Perfetto. Alfonso, quindi dal 6 al 15 marzo per chi fosse a Milano, e poi speriamo e aspettiamo presto una tournée, speriamo, in tutta Italia. Sarà perché ti amo, le canzoni di Ricchi e Poveri, un musical che io non vedo l'ora di vedere. Grazie al regista Alfonso Lambo. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie, torno in sala prove. Vado. Il sabato del villaggio. Rieccoci insieme con il nostro sabato del villaggio, dopo Giovanotti, dopo il Mamma Mia italiano con le canzoni dei Ricchi e Poveri, ancora nell'ora precedente il nostro Pagliarini, il nostro Franco D'Assisti, mezz'ora con Sergio Castellitto, abbiamo festeggiato il compleanno, mi piace dire così, di Lucio Dalla, adesso ancora altri capitoli, ma prima vorrei rispondere a un sms 349-238-6666 di Maria, che riferendosi all'app che ci ha segnalato Enrico Pagliarini, e noi abbiamo detto che era gratuita, dice costa 3,99 euro. No, bisogna fare attenzione perché ce ne sono varie che si chiamano Edo, e questa è, adesso io l'ho trovata e non me la ricordo più, ma è Edo sai cosa mangi, il nome è più o meno questo, ed è assolutamente gratuita, quindi no, non è un'app a pagamento, quella lì è un'altra, Edo sai cosa mangi. Ancora, per quanto riguarda invece l'account di Twitter, basta seguire @MartaCagnola e vi metto tutte le foto, tutto, cioè non ce n'è uno del sabato del villaggio perché non sarei in grado di seguire più cose, sono troppo confusionaria. Adesso però abbiamo parlato di cinema, abbiamo parlato di tecnologie, è il momento di andare a vedere cosa c'è di nuovo nelle nuove tendenze, di nuovo nei costumi. Beh, insomma, apriamo un altro capitolo del nostro sabato del villaggio. Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo y siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, quindi in spirito carnevalesco con questa musica? Beh, voglio subito sapere perché, allora lo chiediamo alla nostra esperta di consumi e di nuove tendenze, Maria Luisa Pezzali. Buongiorno Maria Luisa, come mai tutta quest'aria di carnevale? Buon pomeriggio Marta, un saluto a tutti agli ascoltatori. Sì, perché oggi parliamo del carnevale, quindi non parliamo di una tendenza come spesso facciamo, parliamo di un evento appunto come il carnevale, un fenomeno, una tradizione che in realtà è specchio di molte altre tendenze, perché in un modo tutto suo il carnevale racconta i personaggi, le storie, gli oggetti simbolo anche della politica, dell'attualità piuttosto che del costume. In molte città il carnevale è finito la scorsa settimana, però uno dei più antichi e prestigiosi carnevali italiani finisce proprio oggi, tra poco, anzi alle 18.30. Marta, ci sarà la sfilata finale con le premiazioni. Sto parlando del Carnevale di Viareggio e per saperne di più abbiamo in collegamento Stefano Pozzoli, che è il commissario straordinario della Fondazione Carnevale di Viareggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a lei. Buon pomeriggio. Allora, quest'anno protagonista come sempre la satira, la politica. Ci racconta un po' dei carri che hanno attirato di più l'attenzione? Beh, indubbiamente due carri riguardano, che hanno colpito molto, riguardano la politica. E il primo è un carro che rappresenta una enorme Merkel, che se fosse in piedi sarebbe di 27 metri, che partorisce tanti piccoli renzini. E questo è un carro che ha avuto molta audience in Europa, ci sono stati commenti in vari giornali, debito eccetera, in giro per l'Europa. Un altro che ha sempre questa, diciamo, avuto uno scolto internazionale è un carro che si chiama Il Grande Freddo, dove sono rappresentati i grandi della terra che si riscaldano a un globo che brucia, che si incendia, dove ci sono i presidenti, i capi di stato americano, russo e cinese. E anche questo carro ovviamente è stato ripreso dal Time, dalla Pravda e da moltissimi giornali internazionali. Poi ci sono i temi tipici nostri, diciamo nostri intesi come italiani, quindi un grande carro che rappresenta Renzi come una sorta di Robocop, che si chiama Reformer e così via. E poi ci sono altri temi, perché Carnevale di Viareggio in realtà è un carnevale a tema libero, nel senso che i costruttori non hanno nessun indirizzo e non sono vincolati, quindi c'è un carro contro la violenza ai minori, che è un carro che sta avendo molto, colpisce molto il pubblico, ce n'è uno che rappresenta un enorme elefante che parla della protezione degli animali, in particolare degli elefanti che vengono cacciati per via dell'avorio e così via. Non so se è vero che ci sarà anche un matrimonio questa sera con la sfilata finale del carnevale. Beh, sì, vuol sì, dire sì. Che è molto sentito come evento? Sì, perché è un fenomeno dal punto di vista sociale straordinario. Lei pensi che Viareggio ha 60.000 abitanti e che circa 5.000 partecipano alla sfilata, perché sono sui carri, ballano, danzano, fanno parte di quello che viene chiamato il corteggio. Ogni carro è accompagnato da 250-300 persone in maschera che fanno parte dello spettacolo. Quindi un grande coinvolgimento per tutta la città. Insomma, c'è anche un debutto in cartapesta per Papa Francesco, se non sbaglio. Sì, è quello che abbiamo presentato all'Expo di Milano ed è una di quelle che vengono chiamate mascherate di gruppo. Sì. È un tipo di allestimento che viene presentato al carnevale, perché chiaramente del carnevale di Viareggio colpisce anzitutto il gigantismo di certi carri, che sono sostanzialmente più alti di palazzi di 5 piani, scorrono fra la folla, ma poi ci sono i carri cosiddetti di seconda categoria che sono un po' più piccoli, poi queste mascherate di gruppo e poi le mascherate singole che rappresentano un po', diciamo, la primavera del carnevale, quindi sono persone che si misurano con la loro il primo allestimento. A questa sera dunque per il gran finale e poi per la premiazione, grazie a Stefano Pozzoli per essere stato con noi. Bene, grazie a voi, buon pomeriggio. bella questa idea della primavera, del carnevale, sento già quest'aria primaverile. Maria Luisa, però questo è il momento dei nostri consigli, delle nostre strategie anticrisi, di cosa parliamo oggi? Allora, spesso per queste strategie anticrisi parliamo dell'online come alleato per molti acquisti vantaggiosi, lo abbiamo detto tante volte. Oggi invece, Marta, torniamo a fare la spesa, per così dire, in un posto molto tradizionale, il supermercato, perché parliamo di come risparmiare su due categorie in particolare, farmaci e benzina, due capitoli importanti della spesa per molti di noi nella grande distribuzione. Lo facciamo come sempre in compagnia della nostra esperta Cristina Lazzati. Ciao Cristina. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio Cristina, sai che ci ascoltano tantissimo il sabato pomeriggio, a me dicono, mentre stanno cercando parcheggio nei centri commerciali. Quindi diamo un'indicazione a chi sta proprio guidando in questo momento a caccia di spese. E allora partiamo subito con la benzina, perché come tutti sappiamo ormai prima di metterci in viaggio facciamo due conti per capire se il viaggio e il costo della benzina ce li possiamo permettere o meno. Bene, buone notizie, perché la GDO nel frattempo, negli ultimi anni dopo la liberalizzazione di questo aspetto, ha iniziato ad aprire le loro pompe di benzina, quindi abbiamo sul territorio 30 distributori Conad, abbiamo distributori a marchio Coop, ma abbiamo anche quelli a marchio Simpli, Auchan, Carrefour, Finiper il Gigante. I prezzi sono decisamente più bassi e anche se sono pochi centesimi, moltiplicati per il numero di litri e per la strada che facciamo, effettivamente, vi faccio un esempio: la benzina nei 30 distributori Conad, dove sono passati ben 11 milioni di automobilisti, si è risparmiato in totale un 76,3 milioni di euro. Quindi un bel risparmio hanno fatto gli italiani negli ultimi anni. In particolare il prezzo tra il 1 settembre 2014 e il 13 febbraio 2015, secondo i dati Conad, è diminuito del 13,4%. Perché costano meno? Perché uno se lo chiede sempre, dice, ma non costa meno, non c'è, cosa ci sarà dentro? Beh, a parte che la benzina, se è benzina la macchina funziona, se no no. Però in realtà Conad, ad esempio, ma lo stesso ha fatto anche la Coop e gli altri, opera con una filiera di approvvigionamento molto corta, quindi non paga tutti i vari prezzi che ci stanno in mezzo e di conseguenza c'è un risparmio. La maggior parte delle pompe Conad o Coop eccetera sono il servizio a carico del cliente, quindi in linea di massima si risparmia un po' sul personale e il risultato è che il prezzo della benzina scende notevolmente. Però se uno vuole essere sicuro di risparmiare, c'è anche un sito che si chiama prezzibenzina.it, di cui c'è anche un'app che è georeferenziata, dove si può andare per capire dove si spende meno in quella posizione per la benzina. Passiamo invece al parafarmaco, quindi parliamo comunque di farmaci da banco, l'esempio classico è il paracetamolo. Ecco, anche in questo caso sia Coop che Conad, ma anche Carrefour e Auchan, hanno aperto le loro parafarmacie da quando ci furono le famose lenzuolate di Bersani. Sembrava che si passasse anche qualche farmaco di fascia C, ma recentemente la lenzuolata si è rivelata un fazzolettino e di fatto non si può. Però rimangono comunque i vari medicinali da banca che costano nei Coop Salute un 25-30% in meno. In particolare, dello stesso farmaco acquistato in farmacia, in particolare la Coop ha fatto anche le private label e sulle private label si risparmia il 50% rispetto invece ai prodotti di marca. Conad uguale, farmaci scontati dal 15 al 40% rispetto ai listini. Ci sono circa una scelta di 4.000 prodotti e poi c'è quello che normalmente troviamo nelle parafarmacie o anche in molte farmacie, dove di fatto sappiamo tutti che non si va solo a comprare o a prendere la ricetta del medico, ma di fatto poi ci si ferma tra shampoo, creme eccetera eccetera, e questo si trova anche nelle parafarmacie della grande distribuzione. Ricordiamo Cristina, private label, che cosa intendiamo? Ah, scusate, sono i prodotti, questo in generale, con la marca del distributore, per cui in questo caso parliamo di prodotti col marchio Coop. Comunque, visto che in tutte queste parafarmacie ci sono dei farmacisti laureati, specializzati eccetera, ovviamente basta andare da loro e chiedermi, scusi, mi dà il prodotto a marchio Coop oppure mi consiglia che cosa è meglio per il mio mal di testa. Fondamentalmente ci sono lì dei farmacisti giovani e molto attenti che vi sapranno consigliare. Grazie Cristina per essere stata con noi, a presto. Grazie a Cristina. Voi. Ciao Cristina. Ciao. Maria Luisa, invece l'appuntamento con Essere e Avere? Per domani alle 15, come sempre, non mancate. Un saluto Marta, un saluto a tutti. Il sabato del villaggio. ultimo blocco del nostro sabato del villaggio, perché dopo il GR delle 17 ci trasformiamo in RadioTube. Ma come sentite, se sentite, sto sorridendo, perché al 349-238-6666 è arrivato un altro messaggio in merito a Edo, l'app che ci ha segnalato Enrico Pagliarini. Perché Norma da Verona dice: oddio, sto controllando tutti i barcode della dispensa, app stupenda, ma temo di diventare dipendente. Sì, questa app che dice tutti gli ingredienti. Se vi foste persi questa parte della trasmissione, io adesso, finita la trasmissione, metto tutto il podcast online, quindi la trovate subito nei podcast, proprio tra qualche minuto. Adesso però abbiamo parlato di tanti argomenti, ci mancano ancora i libri, non abbiamo ancora parlato di libri del nostro sabato del villaggio, quindi sentiamo cosa ci ha portato oggi la nostra Alessandra Tedesco. Scrivimi quando il vento avrà spogliato gli alberi. E lo spazio dei libri di questo sabato del villaggio si apre con un appello. Elena Ferrante, scrivi anche a me, stai scrivendo a tutti, perché non scrivi una lettera anche a me, misteriosa Elena Ferrante? Chissà se Elena Ferrante ha scritto alla nostra Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Ti vorrei rispondere con Je suis Elena Ferrante. Ah, per scoop, no, insomma, non posso dirlo effettivamente. Sì, Elena Ferrante ultimamente sembra si sia, come dire, sia diventata come la Dea Kali, con 100 braccia, 100 mani, sta scrivendo lettere a destra manca. Non è vero niente. L'unica lettera della scrittrice misteriosa, la cui identità rimane tuttora misteriosa, Elena Ferrante, l'unica lettera autografa, come dire, vera, è quella che ha inviato a Repubblica martedì 24 febbraio. Facciamo sentire Repubblica. Ce l'ho in mano. Con la quale ha, diciamo, virtualmente accettato la candidatura al premio Strega, che era stata avanzata da due amici della Domenica, perché lo Strega, rapidamente lo spieghiamo, funziona così: ci sono questi amici della Domenica che sono i giurati, almeno due devono presentare la candidatura di un libro, in questo caso sono stati Roberto Saviano e Serena Dandini, ma, ed è qui il ma, lo scrittore deve accettare per iscritto. E dunque, chi firmerà al posto di Elena Ferrante se dovessi accettare veramente questa candidatura? In realtà firmerà l'editore al suo posto. Okay. Quindi, insomma, il mistero è svelato anche in questo caso, non cambierà nessun regolamento. Elena Ferrante, quindi, se l'editore della EO firmerà, sarà candidata al premio Strega. Ma se gli amici della Domenica votano il premio Strega, noi non possiamo fare le amiche del sabato e fare un altro premio nostro? Guarda, mi hai letto nel pensiero, ma se vuole fare un premio, ma dai, facciamo le amiche del sabato, il premio Maga Maghella. Sì, facciamo, io e te facciamo le due amiche del sabato, esatto. Candidiamo i libri e li votiamo, decidiamo noi a nostro insindacabile giudizio. Fantastico, dai, pensiamoci. Allora, torniamo a Elena Ferrante, visto che ne parlano tutti. Abbiamo già parlato nel nostro sabato del villaggio, abbiamo già raccontato chi potrebbe essere, che cosa ha sicuramente scritto e quali sono le sue storie. Sì, allora, chi potrebbe essere lo diciamo mille volte, ma poi alla fine non è che ci interessi moltissimo, insomma i libri sono belli, punto, il resto è gossip. Comunque lo ripetiamo, l'ipotesi più accreditata è quella che sia Domenico Starnone, lo scrittore Domenico Starnone, insieme alla moglie, che è una traduttrice, Anita Raia. Comunque, al di là di chi si celi dietro il nome di Elena Ferrante, ricordiamo la sua tetralogia, i suoi quattro libri, l'ultimo dei quali appunto potrebbe essere candidato allo Strega, ed è la tetralogia dell'Amica Geniale. Quindi l'Amica Geniale, Storia del nuovo cognome, Storia di chi fugge e di chi resta, e l'ultimo volume, Storia della bambina perduta, l'Amica Geniale volume 4. Protagoniste sono due, prima bambine, poi adolescenti, poi diventano adulte, due ragazze, insomma, Lila ed Elena. Tutto si svolge all'inizio nella periferia di Napoli, in un quartiere, insomma, degradato, e questi quattro romanzi raccontano la storia dell'amicizia complessa fra queste due donne. È un rapporto fatto di odio ed amore, come spesso sono i rapporti, insomma, quelli veramente intensi fra le persone. Quindi possiamo definire l'Amica Geniale come una grande storia d'amore ed amicizia. Mi piace molto, e vorrei parlare però anche di un altro libro di cui si parla, perché è un libro che è tornato recentemente di grande, grandissima attualità. Questo questa musica, questa colonna sonora ci porta subito al premio Oscar Birdman, miglior film, miglior regia, 4 statuette negli Oscar lo scorso fine settimana, ma anche qui dietro c'è un libro. Eh sì, dietro c'è un libro, perché in realtà il film, appunto Birdman che citavi, il protagonista del film è una star che ha raggiunto appunto il successo interpretando l'uomo, diciamo l'uomo alato, l'uomo uccello, chiamiamolo così, però vuole dimostrare agli altri di essere un attore e decide allora di scrivere l'adattamento del famoso racconto di Raymond Carver, dell'americano Carver, Di cosa parliamo quando parliamo d'amore, che è un racconto che dà il titolo ad un'intera raccolta di racconti. Dietro questa collana c'è una storia molto, molto carina, secondo me, perché Carver inizialmente non aveva quella scrittura cosiddetta minimalista, no? Quella scrittura secca, frasi brevi, poche descrizioni, per la quale poi viene ricordato, insomma, nella storia della letteratura internazionale. Diciamo che ha lavorato di accetta sui racconti di Carver il suo edito, Gordon Lish. E perché ti dico che nel caso di cosa parliamo quando parliamo d'amore c'è una bella storia? Perché in questo caso, nel 1981, Carver manda al suo editor questa nuova raccolta di racconti e lui gli taglia quasi il 50% di quello che aveva scritto. Ah. E toglie anche, cambia il finale di alcuni racconti. Insomma, litigarono anche via lettera, però venne pubblicato nella versione minimalista, versione che abbiamo avuto in Italia pubblicata dalla Minimum Fax, ma alcuni anni fa Einaudi ha pubblicato una raccolta che si chiama Principianti, stavolta non si chiama più Di cosa parliamo quando parliamo d'amore, della versione originale di Carver, quindi il Carver allargato, il director's cut, diciamo, esattamente, cioè senza tagli. Alessandra, a chi li consigliamo? Beh, intanto ha chiamato Birdman per farsi un quadro complessivo. Allora, sicuramente ha chiamato Birdman. A chi ama le letture brevi, io lo ripeto sempre, i racconti sono bellissimi, avete poco tempo, invece di leggere 4 pagine di un romanzo la sera, leggete un racconto fatto, finito. A chi ama anche il senso del grottesco, perché in questa raccolta, ti faccio un esempio, ci sono delle persone per bene che amano le mogli, i figli, eccetera, poi vanno per strada, incontrano delle ragazze e le ammazzano a sassate. Oppure c'è una mamma con un bambino, stanno andando a comprare la torta di compleanno, il bambino viene investito e il pasticcere perseguita con le telefonate i genitori perché gli vuole assolutamente consegnare questa torta di compleanno, anche se il bambino purtroppo non c'è più. Sono racconti che ritornano in libri e film, vengono citati più volte. A proposito di film, dobbiamo segnalare ancora una volta che le 50 sfumature sono sempre da record. Niente, Alessandra Tedesco proprio non le ama le 50 sfumature. Vorrei fare il selfie della mia faccia in questo momento, quasi quasi lo twittiamo. E siccome Alessandra non ama le 50 sfumature, abbiamo la nostra rubrica Oltre le 50 sfumature. Se non vi fossero piaciute, o se vi fossero piaciute molto, andiamo a scoprire che cosa c'è di hot sugli scaffali questa settimana. Un erotico d'autore, veramente molto molto drammatico in realtà, ma è uno dei miei libri preferiti, che si intitola La Camera Azzurra di Georges Simenon, insomma è un nome che dice tutto, pubblicato da Delphi. Non posso farvi sentire il rumore del libro come faccio sempre. Non ce l'hai? No, l'ho prestato a qualcuno, anzi faccio un appello: a chi ho prestato La Camera Azzurra di Simenon e non me l'ha ancora restituito, per cortesia, è un libro a cui tengo tantissimo. Dicevamo, recuperiamo facciamo il servizio recupero libri invece di recupero crediti. La storia è molto intensa, perché è una storia d'amore clandestino, quindi un uomo e una donna che vivono questa passione, sono entrambi sposati, ma a un certo punto il marito di lei, dell'amante, muore in circostanze misteriose. Prima lui, Tony, viene accusato di un possibile omicidio, poi viene accusata lei, poi ci sarà un processo, insomma inizia con una grande passione, una grande erotismo e finisce però in dramma. Quindi 50 sfumature sì, ma un libro bello tosto. A chi lo consigliamo? Io lo consiglio a tutti quelli che hanno una passione rossa e nera nel cuore. che non è Forza Milan, che non è il Milan, che è il Milan, Alessandra. L'appuntamento invece con il Cacciatore di Libri per sapere ancora di più di tutte le novità in questa settimana. Come sempre stasera dopo le 22 potete seguirmi su Twitter come Ale Teddina e vi informo sempre, oltre a twittare naturalmente, le copertine dei libri quando non te li rubano. A presto Alessandra. Ciao Marta. Ardo ed insidioso il pendio dell'abbandono, affranto e compassionevole il buon Dio osserva inerte. Beh, il pendio dell'abbandono, Carmen Consoli, abbiamo parlato di Elena Ferrante, tu sottien. Adesso però è il momento di dare la linea al nostro GR24. Noi ci prepariamo perché io mi cambio d'abito, perché tra poco sarà il momento di RadioTube, ma tra poco adesso c'è il GR delle 17.